il numero quantitativo in sé rispetto appunto alle prime ricerche, comunque le prime statistiche di fine anni 70, è vero, dopodiché la popolazione in Italia aumenta, quindi il dato relativo, se andiamo a guardare il tasso di occupazione, continua a rimanere al 58,4%, cioè sempre non la coda bassa rispetto agli altri paesi europei. E soprattutto quello che ci possiamo dire è che, guardando i dati, l'incremento occupazionale continua a essere attribuibile solo esclusivamente, diciamo, ai contratti subordinati a tempo determinato. Tra l'altro sono numeri che di mese in mese si fanno sempre più acuti. Io ho provato a ricostruire un po' la serie storica, e se guardiamo appunto quello che è il periodo di inizio crisi, no? Noi ci rifacciamo ormai in qualche modo al 2008 come momento generale di riferimento. Noi vediamo che il totale di occupati, se andiamo a prendere la somma per fasce di età, aumenta soltanto di 23.000 e si distribuisce davvero in maniera completamente diseguale tra le classi anagrafiche, cioè ne abbiamo una perdita di occupati tra i 25 e i 34 anni di quasi 1.500.000, sono 1.467.000, mentre aumentano di 2.800.000 gli occupati over 50. Se guardiamo ancora appunto a qual è l'aumento del tempo determinato tra aprile 2018 e aprile 2008, vediamo che gli occupati a termine aumentano di 599.000, mentre quelli a tempo indeterminato di 54.800, cioè parliamo veramente di pochissima roba. Poi appunto, rispetto alla tua frase iniziale, parlano di buone notizie, ma buone notizie per chi? Sicuramente non per i lavoratori in questo caso. Certo, e tu lo citavi prima fra le righe e lo diciamo ancora in modo ancora più esplicito: la disoccupazione giovanile torna a salire, appunto, ritorna sopra il 34%. Sì, intorno al 33%, se non mi ricordo esattamente l'ultimo numero di questo mese, scusate. Comunque sì, appunto, è un numero ed è un valore che continua in qualche modo a oscillare su una grandezza abbastanza vasta. Siamo sempre sopra appunto il 33%, ovvero 15 punti percentuali rispetto alla media europea, e quando andiamo a guardare il tipo di occupazione giovanile ci rendiamo conto che è veramente sempre più precaria e tipica, nel senso che al di là di quello che si può dire retoricamente come narrazione lavoretti, noi siamo dentro forme contrattuali in espansione ed esplosione, che sono i tirocini, gli stage, cioè non esiste davvero il contenuto del lavoro, ma anche di quello che è la portata poi reale in termini di monte ore lavorate, di contributi, di salari, di democrazia minima a cui hanno accesso questi lavoratori. E allora provo a intersecare questi ragionamenti con quelli che si fanno per la crisi politico-istituzionale, no? Si parla tanto di debito, però se ci sono lavori sempre più precari, che, e tu dicevi poco fa, anche i contributi poi versati sono pochi, questo fa male anche al debito? Ma al debito in valori assoluti dipende, perché dipende appunto, cioè la parte di debito che è pagata in interessi, la parte di debito che di fatto è data da spese tipo gli incentivi vari alle imprese, che ci costano in media 20 miliardi a triennio. Il problema che abbiamo è il rapporto debito-PIL, lo ripetiamo, perché poi la sostenibilità del debito vale in funzione di quanta ricchezza e reddito siamo in grado di creare ogni anno, e quello che noi abbiamo è che il PIL non aumenta abbastanza, e quando aumenta, aumenta soltanto per quelle fasce di popolazione, di società già abbastanza ricche, no, tipo il 20% più ricco della popolazione. Questo significa appunto che nel mondo del lavoro, se non si aumenta la parte di domande, quindi da un lato salari e contributi e dall'altro anche qualità del lavoro attraverso, come diciamo sempre, la politica industriale, gli investimenti pubblici, investimenti proprio in occupazione pubblica diretta. Poche settimane fa è la notizia che abbiamo rispetto alla media europea: circa 2 milioni di funzionari pubblici in meno. Stiamo parlando di medici, infermieri, giudici, insegnanti e quant'altro. Mentre quando guardiamo la crisi di governo e leggiamo il contenuto di quello che dovrebbe essere la politica di governo sul lavoro, vediamo che l'unica occupazione che è iscritta nel contratto di governo Movimento 5 Stelle Lega è l'aumento di 10.000 occupati nei carabinieri. Certo, quindi in un settore come quello della sicurezza, insomma, che dà un'idea anche abbastanza repressiva. E, no, infatti proprio volevo farti questa domanda, hai già risposto, cioè appunto il contratto di governo famoso, ammesso che rimanga quello, ammesso che appunto si vada a formare questo governo con o meno senza con Fratelli d'Italia, e non c'è un'idea, diciamo, organica su come intervenire su questo tema. No, in realtà loro nel contratto di governo hanno un'idea ben precisa, infatti si parla soltanto di rendere strutturali gli incentivi alle imprese, non si tocca minimamente tutta la legislazione, diciamo, del diritto del lavoro, quindi né Jobs Act, pacchetto 3 o nessuna delle riforme, diciamo, che sono succedute verso sempre una maggiore flessibilizzazione e liberalizzazione dei contratti e dei rapporti di lavoro. Quindi l'indirizzo politico è chiaro, manteniamo nelle mani delle imprese, anzi incentivandole, la gestione più totale, la più totale libertà rispetto alla politica, alle relazioni industriali di questo paese. Cioè non è vero che non esiste, continua nel solco liberista che abbiamo visto negli ultimi 25 anni e non poteva essere altrimenti, pensando che è un contratto firmato dalla Lega che in questi 20 anni ha spesso governato insieme al centrodestra e ha approvato le peggiori riforme nel mercato del lavoro, di fatto.